Mimì una volta tanto fa qualcosa di diverso e vieni dietro a me. Metti il sole alle tue spalle che davanti ci stia io. Una volta tanto lascia che il tuo passo segua il mio. Avanti seguimi con quei piedi da cui puoi levar le scarpe ma non puoi levare me. Prova tu a sdraiarti a terra e a capire quanto è duro non poter restare in piedi senza avere dietro un muro. E allora seguimi come ho fatto io ogni volta, anche quando non volevo insieme a te. Sono stato il tuo compagno, ti ho seguito a far l'amore, tu con una donna vera ed io con l'ombra sua in colore. E adesso ascoltami se ti chiedo di più. Ti torcerai le mani per il tempo che è scaduto, lo perderemo insieme, solo tu lo avrai vissuto. E intanto questa storia andrà a finire a modo mio, e tu sarai un'ombra come sono adesso io. Quando il buio torna a chiedermi per sé, io che vivo tutto il giorno per quell'unico momento, quando il sole sopra picco, sono lieti, sono dentro. E adesso ascoltami se ti dico di più. Ti torcerai le mani per il tempo che è scaduto, lo perderemo insieme, solo tu lo avrai vissuto. E intanto questa storia andrà a finire a modo mio, e tu sarai un'ombra come sono adesso io. Vedrai che in quel momento avrai bisogno del mio aiuto, se nel mio mondo oscuro sarai tu lo sconosciuto. Seppure non sia vera, questo sogno solo mio, che tu diventi un'ombra.